sitä striätti ridi, manifestatisi. Rakas sitä striäito otsi, ve odio je pieni, ele la morte, che ti te se amar. Ele la vita, che te se sitä striätin kundi, la malvagita. Diketen kanasi gajarda, ale atrocita. Eti la morte, te se amar. Eti la vita, te se copar. Ragazzetta stria te prego, va via da me. Di che te sei tanto arrogante e cattiva, perché, perché la morte di te si ama, perché la vita te si copa.